questo giorno in cui vengo battuto delle nere di suore il fiero orgoglio. Io non cerco gli applausi e non le coro, basta che le superbe di Andromeda che vive la difesa il mio amor pianga delose, disdegnose e confuse, mirino il seno a tetti cangiato in duro stoglio, il ministro crudel della vendetta. E più dunque sospetta, sciolganzi questi lacci della bella innocente, che ravviso di ninfa ogni pastore di Perseo fortunato, il braccio invitto l'amoroso cuore. Signor, ira del fuoco, fiaccasti col valor della tua destra, opportuno soccorso al comune dolor. Silenzio impose, io non crede già più su questi campi lieto condur la greggia, né rallegrar col canto il regio armento. Tua merce mi sembra men grave il peso di canuta etade, e parmi che risorga in me vivace la già perduta e sospirata pace. Che noi sapere, amor la sua mecede ma sa viver se u sappi che di mia libertà questi che il cielo mi lascia tu mercè miseria avanzi rendono la mia vita e dello stesso morir meno gradita nulla dunque tu apprezzi del mio provido amor le prove il merito gratitudine il vieta e che sia mai che tenda nuove insidie alla mia pace una fiamma vivace che dall'eso gentil nel cor m'accese più misera mi fa di quei che fui schietata fagna lui che immerso in mille oggetti nulla cura il tuo amore o non lo so Thank you. Mi amante, ne sa che sia dolor, mi Sdegni e furore, ogni valle risuona, in van si spera e in vano e si priega e si piange. Oh tempi, oh sorte, Perseo giura vendetta e niega, ingrata Andromeda la fede alle promesse. Questa nuova sciagura che mi sembra un fantasma, un sogno, un'ombra d'eccessivo dolore. L'anima incombra. Thank you. E ormai io avevo sorriso, perché forse non sai, povero cuore, che chi è nato al pinar vive al dolore. La tua nemica sorte tanto m'affligge tanto che se ben tu non vedi quest'occhio a lacrimar ne scopri il pianto. Questa degli odor pietà che dici tanto per me crudeli non saresti già nemico d'amor amar non voglio Andromeda lo sai ama che giusto il tuo Perseo fedel che ben lo merta io parto almeno non partir si presto ode pria che tu quando caro mi sei quanto mi piaci se da me speri amore la speranza è un delirio che ronno in questa guisa l'amor mio tu disprezzi con tal vigore della mia libertà servo il piacere piacere che troppo è fiero a quest'almo d'aliso che vive ma piacere che mi giova a dirmi sì tu di sdegno e di formare già te lo dissi ancor non voglio amore. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah star del mezzo c'è la meta, vedrem compiuto le comuni brave. Giorno più fortunato, sperar non dice. A noi se ne venga Imeneo, il se ne sposi, sparga fecondo e lieto, cigli e rose, né mai destino audace, a veleni il piacer, turbi la pace. Dalle superne stelle dietro discendi, e tu notte distendi, distendi il bel che ascondi. Adorator, sì.

più bello il godimento, né via correndo, né via dormendo di colla dal volere.

珍惜水资源，让美永驻人间。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 是又到雨季了。气氛不算 融洽，阴天下雨就是容易影响心情。 在同个屋檐下，你渐渐感到心在变化。 为什么心在变化呀？忘带伞了。 汛期将至，提醒您及时关注天气预报和汛期预警。雨天减少出行，多使用公共交通，绕行积水路段，听从交警指挥，关爱生命，远离洪水，人人参与，安全度汛。 真正的女神不一定长发披肩，也可以潇洒干练。 真正的女神不一定全身名牌，也可以一身戎装。 真正的女神不一定来自秀场，也可以走进军营。 来当兵吧，在军营里遇见最美的自己。北京市热血新兵招募季现已全面展开，凡是驻京普通高校在校生、应届毕业生和具有北京市户籍高中毕业以上文化程度的适龄青年均可报名。查询相关政策请登录首都征兵网首页。好，快乐假期现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 古筝曲，高山流水，清新淡雅。 二胡曲，江河水，汹涌澎湃。 古琴曲，流水，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是消防车，守卫着这座城市。 出发。 很多人说我有红色的铠甲，坚定的信念和无坚不摧的体魄。可是，每当看到人们因为不小心的疏忽造成难以挽回的损失，我的心…… 提高消防意识，远离火患，幸福平安。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合，当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家，包容导盲犬，关爱盲人。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 不管驾驶速度有多慢， 不管车上是否有乘客， 不管是否停在红灯前， 不管是否有车载电话或蓝牙耳机， 不管谁给我打电话， 我承诺开车时不使用手机。 开车时不使用手机，不是因为你的手没有放在方向盘上，而是因为你的心不在驾驶中。 北京人民广播电台提醒您，开车时请勿使用手机。 大音精华，声系天下，北京人民广播电台公益广告。 我是导盲犬，我不叫不闹不咬人，我是盲人的眼睛，请大家允许我出现在公共场合，当您遇到我时，请不要呼唤，不要拒绝，不要抚摸，不要喂食。 同在蓝天下，共有一个家。